Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti, come ogni domenica siamo qui per tenervi compagnia. Beh, un'oretta non è tanto, però penso che se è un'ora piacevole sia sempre qualcosa di che può dare veramente anche qualche ricchezza interiore. Cosa dici tu, Antonio? Oh, naturalmente, io sono perfettamente d'accordo. Ecco. E voglio dare un cordiale benvenuto naturalmente alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per consigli, proposte, critiche, suggerimenti, che è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto cordiale al nostro regista Eddie. Ciao Eddie, è sempre il nostro angelo, io dico sempre, è più angelo custode di lui, penso che non se ne sia. Ascolta Antonio, allora stasera abbiamo un ospite virtuale. Virtuale, esattamente. Ecco, però prima di presentare l'ospite avrei una piccola cosa da espletare. Una digressione, va benissimo. Ecco, il giorno 25 ha compiuto gli anni una mia carissima amica e anche, diciamo, un'assidua ascoltatrice, perché penso che non abbia perso neanche una puntata. Ah, questa ci gratifica, sì, in modo esorbitante. Però è una carissima amica sia lei e anche il marito. E allora stasera, così, siccome il 25 noi non c'eravamo, questa sera così desidererei dedicare una canzone interpretando anche il pensiero del marito. Io penso senz'altro che sarebbe lui a dedicargliela questa canzone. Allora, cosa dici tu? Va benissimo. Cantata da Achille Togliani, le dedichiamo Mogliettina. Augurissimi. E auguri. Silenziosa germogliava una canzone da quando la tua bocca mi baciò, e come petali di rosa le sue note sboccerà per dirti ciò che il labbro dir non può. L'incanto di una rosa profumata, deliziosa, sei per me, mogliettina. Il fascino soave della gemma più preziosa, sei per me, mia piccina. Un brivido m'assale nel pensare alla mia vita senza te, mogliettina. Ma il sole del tuo sguardo mi rincorre, la speranza torna in me, mia piccina, e col passar degli anni il cuore invecchierà, ma il nostro amore non morirà. Se qualche ruga sul mio volto apparirà, il desiderio dei tuoi baci in me vivrà. Canto di una rosa profonda. profumata, deliziosa sei per me. Mogliettina, il fascino soave della gemma più preziosa sei per me, mia piccina. E la... Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite virtuale che presenteremo tra poco dopo aver letto qualche racconto dei suoi. Si tratta di Giglio Donato Marinello, nato a Villa d'Ose, provincia di Rovigo, e risiedente attualmente a Milano. Laureato in materie letterarie, ex insegnante nelle scuole elementari e medie, attualmente in pensione, è animatore ed esperto di giochi antichi per ragazzi. Ha scritto Giochi in vacanza e Quando Robinson si diverte, editi dalla casa editrice Meravigli, e ha collaborato per l'editrice De Vecchi nella pubblicazione de Il grande libro dei giochi. A Milano conduce un cenacolo letterario che è Il Melograno. Allora adesso noi leggiamo qualche racconto. Esattamente, tanto per inquadrare diciamo, un pochino, perché lui in sostanza parla di come si viveva un tempo. Esattamente, e rientra naturalmente nella traccia delle nostre trasmissioni, sì. Esattamente, parla, a pieno titolo. Cos'è, del Polesine, del Basso Rovigo? Sì, diciamo di un non meglio identificato, tranne alcuni casi, ambiente contadino, diciamo, ambiente di miseria, ma anche di nobiltà, se vogliamo, ecco. Uno dei racconti si chiama Poveri ma belli. Una volta, parlo di 50 anni fa, la vita era molto più semplice e parca. Erano le stesse condizioni di povertà ed il numero di figli, vere e proprie cucciolate, a renderci tutti un po' più responsabili e meno esigenti, ad esempio nel vestire. Un abito nuovo ed un paio di scarpe per la domenica, e questo ci doveva bastare. Negli altri giorni si camminava per lo più scalzi e con pantaloni rattoppati. Ricordo quando la mamma ci portava con sé, ora l'uno, ora l'altro dei miei fratelli, in un negozio di scarpe. «Te piace?» ci diceva dopo avercele acquistate. «Tiente da conto, perché de schei non ghine più». E ce le tevamo sì, curate, perché ci rendevamo conto che anche l'acquisto di un paio di scarpe, essendo in sette, costituiva per tutta la famiglia un enorme sacrificio. C'è un episodio in proposito molto significativo ed illuminante. Un giorno Arrigo, il maggiore dei miei fratelli, entrò con mia madre in un negozio di vestiti per uomo. «Hago un po' de schei», disse la mamma, mentre si guardavano intorno, come dire «scegliti il vestito che vuoi». «Mi piace questo», dichiarò a un tratto mio fratello. Mia madre guardò il capo scelto, lo toccò. «Aghese de meio», osservò con fare da intenditrice. «Senti, mamma», tagliò corto Arrigo, «miago pressia, ago d'andare a baiare». Non ci fu verso di fargli cambiare idea. Se anziché quel vestito avesse indossato un sacco di juta, sarebbe stato la stessa cosa. Arrigo avrebbe potuto disporre tranquillamente di quel gruzzoletto, sia pure messo faticosamente da parte, ma il timore di gravare sul bilancio familiare lo trattenne. Eppure, nonostante tutto, eravamo contenti. Ce ne andavamo in giro con dei vestiti dalle taglie abbondanti, spesso ereditati dai fratelli maggiori, con le suole e le tomaie delle scarpe rifatte non so quante volte, con camicie dai colletti scuciti e girati, ma nessuno poteva dire che eravamo sciatti e disordinati. Ricordo i miei fratelli, io ero ancora piccolo, le attenzioni e le cure che dedicavano al proprio aspetto, le mezz'ore passate davanti allo specchio zufolando, perché un ricciolo che fosse un ricciolo non doveva rimanere fuori posto. Era quella la cosiddetta età d'amorosa, non si usciva se non si era perfettamente in tiro. Accadeva puntualmente il sabato e la domenica pomeriggio, con mia madre messa sotto torchio fin dalle prime ore del pomeriggio a smacchiare e stirare. Mi pare ancora di sentirli. «Sta camisa è pronta o no? E i miei pantaloni?» Nel loro look nulla veniva lasciato al caso, dalle scarpe lucidate alla piega sui pantaloni, dal nodo alla cravatta alla foggia dei capelli. A questi dedicavano le maggiori attenzioni, imbrallintinandoli e pettinandoli a non finire. Perché sia chiaro, dalla forma dei capelli, a quei tempi erano di moda la zazzera ed il ciuffo, dipendeva per gran parte la conquista di una ragazza. Indossavano infine la giacca, il fazzolettino a triangolo nel taschino, una spruzzatina di profumo sui polsi e poi via, ognuno sulla propria bicicletta tirata a lucido. Era questo lo spirito con cui si affrontava la vita a quei tempi, dignitoso e spartano ad un tempo. Penuria di soldi e di mezzi non costituiva mai un ostacolo alla nostra voglia di affrontare la vita con leggerezza. Eravamo poveri, ma orgogliosamente fieri di esserlo. Poveri, ma belli. Non aveva importanza se avevamo tanti o pochi soldi in tasca. Il vigore e l'esuberanza della nostra giovane età erano già di per sé una ricchezza. È vero, sai. Cosa che attualmente mi pare sia stato proprio dimenticato. Mi pare proprio di sì. Poveri, ma belli. Usava, mi ricordo, per l'uomo a quei tempi, Etrusca e Capriccio per il signore. Etrusca per l'uomo e Capriccio per il signore. E come ci tenevano a avere le biciclette belle, lucide, a posto. Sì, sì. Adesso, biciclette. Vabbè, adesso vi cimenterò io con un altro racconto che è intitolato Bertilla del Mastello. L'unica stanza riscaldata della casa in cui abitavo da bambino era la cucina. Lì ci si riuniva, si mangiava e ci si lavava pure. Per quest'ultima funzione si usava il mastello, un alto recipiente in legno ad oghe che veniva riempito di acqua calda. Il problema si poneva naturalmente d'inverno, quando, per rispettare l'intimità dei singoli, ci si toglieva di mezzo, aspettando di solito in un'altra stanza. Dovevamo invece uscire tutti di casa, tranne ovviamente la mamma, quando ad entrare nel mastello era Bertilla, la più giovane delle due sorelle. L'altra si era già sposata. Questo succedeva soprattutto di sabato, il giorno delle grandi pulizie. Si sa quando una donna entra in un bagno, ma non si sa quando esce. Se poi uno è costretto ad attendere in condizioni di temperatura sotto zero, allora i tempi si dilatano notevolmente. Ogni secondo diventa un secolo. All'inizio gironzolavamo per un po' nell'orto, coperti alla meno peggio. Mio padre portava un tabarro e cappello con le tese. Quindi ritornavamo sui nostri passi. Conoscendo i tempi impiegati dalla sorella, le lanciavamo un primo messaggio di sollecito. Gatto finio, Bertilla. Ancora 5 minuti. Ma che sia 5 minuti, rimarcava mio padre. Riprendevamo sconsolati a girare nell'orto, pestando i piedi e dandoci delle grandi manate sulle spalle e sulla schiena. Per quante astuzie mettessimo in atto, nulla avremmo potuto contro i morsi del freddo. Lo sentivamo salire dai piedi, insinuarsi sotto i vestiti, permeare ogni parte del nostro corpo. Sussultavamo e battevamo i denti. Io più di tutti, dato che sotto il cappotto portavo ancora le braghette. Quella dei pantaloni lunghi era una prerogativa dei grandi. Se poi imbroccavamo una giornata con una bella tormenta di neve, allora c'era veramente da che stare allegri. Ci riportavamo quindi davanti alla porta di casa, considerando ormai immaturo il momento di riprenderne possesso. Ma sia la tapparella che la porta erano ancora saldamente sbarrate. Era quando che mio padre incominciava a perdere le staffe. Bertilla, allora, gatto finio? Ancora 5 minuti. Se fra 5 minuti non te vergi sta porta, intimava mio padre, e a butto so. Ancora un altro giretto dell'orto, si sperava l'ultimo. Ridotti ormai a 2 ghiaccioli, ci ripresentavamo davanti alla porta, decisi a sfondarla per davvero. Allora, ordinava mio padre, cavandone una di quelle che una sola basta per assicurarsi il fuoco eterno. E avversito o no sta porta? E nel dir questo dava piglio alla maniglia premendola con foga. E non si contano le volte in cui fu stata riparata. Nel frattempo, anche noi ti facevamo sentire con dei sassolini lanciati sulla tapparella. Qualche attimo di silenzio e finalmente l'atteso rumore della chiave nella porta. Bertilla aveva terminato le sue abluzioni. Le mani ed i piedi semiscongelati, il corpo scosso da tremendi brividi, rientravamo in casa come bufali inferociti, con mio padre che si era messo a recitare delle speciali giaculatorie. Gli unici testimoni della nostra furia rimanevano il mastello ancora con l'acqua dentro e mia madre che guardava mio padre allarmata. «Fatemi pare un demonio in carne!» esclamava costernata. «A te che dà proprio un bel esempio ai tofioi!» «La colpa se ne che è!» si difendeva mio padre e già sollevava il pugno. Per non riceverlo veramente, Bertilla si era già tempestivamente eclissata in qualche angolo remoto della casa. Schierati intorno alla stufa a legna, assaporavamo finalmente il calduccio. Dapprima in piedi con le mani allungate sopra la piastra, poi da seduti con i piedi appoggiati al tubo protettivo. In seguito, quando anche Bertilla convolò felici nozze, ci fu una nota di commento da parte di mio padre. Anche sta fioia comarità. Però non si è mai ben capito se tale affermazione fosse stata dettata soltanto da un sentimento di contentezza per averla finalmente sistemata e felice, o se non racchiudesse anche un profondo senso di sollievo per aver concluso una volta per sempre la sua e la nostra odissea fuori casa d'inverno, in attesa che Bertilla si decidesse ad uscire dal mastello. Sì. Cosa sempre dici? Facciamo la canzone? Simpatica canzone, naturalmente. Sì, allora ci ascoltiamo la seconda canzone, che è cantata da Patty Pravo, Qui e là. Domani là, io vado vivo così, senza freni vado vivo così, oh yeah. Casa qui, oh io non ho, ma cento case ho. Oggi qui, domani dove sarò? Eccoci di nuovo in studio e adesso il nostro Antonio ci leggerà qualche altro racconto, vero Antonio? Sì, per esempio elemosine. Sia lodato Gesù Cristo. Era il saluto con cui accoglievamo in casa il sacerdote e il suo sagrestano in occasione della questua. L'unico momento nell'arco dell'anno in cui ci riunivamo intorno al parroco, un tipo giovane, alto, bello e ben nutrito. Alla sua imponente figura si contrapponeva quella malconcia del sagrestano, già in avanti con gli anni, gobbo ed afflitto da una leggera forma di Parkinson. Ci sentivamo un po' come delle pecorelle smarrite che il buon pastore veniva a recuperare. Anche mio padre, che in chiesa ci andava sì o no una o due volte l'anno, rimaneva lì in atteggiamento composto, come soggiogato dalla ritualità del momento. Dopo la benedizione impartita con l'aspersorio, il parroco si fermava ancora qualche istante a chiacchierare con noi. Si parlava di un po' di tutto, di annata più o meno fortunata, di lavoro, di battesimi, di matrimoni e di soldi, sempre pochi. C'era una domanda, quella inevitabile, che aveva immancabilmente come destinatario mio padre: la sua presenza a messa. «Non vedo mai in chiesa», chiedeva il parroco. «Ah, non ho tempo», rispondeva lui. «Scuse», controbatteva il prete, «se o vuoi, è il tempo e lo trova. Mi par dirgli a tutta a non che credo tanto». E scominse intanto a farsi vivo, e poi a fede vegnerà. Mentre i due si avvitavano in questo genere di discorsi, ricompariva mio padre con un salame di quelli fatti con il nostro maiale, o una gallina già defunta e qualche uova. «Scheino ganemo, signor parroco», diceva mia madre, quasi a scusarsi del fatto di essere poveri. «Però posso darvi questo?» «Va ben, va ben». «E io daga angioino», era il nome del sagrestano. Questi, afferrate le cibarie, le infilava in una sacca già per metà piena. Una volta andati via, parroco e sacrestano, la discussione continuava con mia madre. «A te potevi essere anche più gentile col parroco», osservava lei. «A te che ha fatto la figura di uno che non crede?» «Ha udito la verità. Cosa vago a fargli in chiesa? Par pregare davanti un tocco di legno?» Così lo considerava il crocifisso. «E poi una roba, ti dico», aggiungeva mio padre, tanto per rimarcare la sua lontananza dalla chiesa. «A me non mi piace un prete che fa politica». Non si sa come, ma quasi ogni volta nelle prediche il parroco tirava in ballo Stalin e Togliatti. Era contro questi che scagliava di preferenza i propri strali. C'era un'altra cosa ancora che non andava giù a mio padre: il modo di tirare su le offerte durante la messa. «Uno più strambo dell'altro», osservava mio padre. Il riferimento era ai due fedeli preposti a tale compito. «Uno», aggiungeva entrando nei dettagli, «è il pare che te punta una pistola. L'altro invece te mette lì sotto il naso a borsa e non te muove affinché non te che metti dentro un scheo». Il primo era uno dei modi duri e spicci. Aveva scogitato uno strano modo di farsi dare l'obolo. Affrontava, o meglio brutalizzava, i singoli fedeli usando la mano a mo' di pistola. Colti di sorpresa da quella specie di arma puntata, molti trasalivano. Chi, non avendo la moneta pronta, si frugava freneticamente nelle tasche alla ricerca di una palanca. E chi invece gli ripeteva la mossa con il pollice e l'indice puntati, ma fatti ruotare in modo che il messaggio fosse chiaro. Non meno ingegnoso ed originale era il sistema messo a punto da Angiolino. Questi si serviva di una borsa attaccata all'estremità di una canna che faceva vibrare sotto il naso degli indecisi finché qualcuno di loro non si spazientiva e, pur di liberarsi del sagrestano, non vi gettava dentro un qualsiasi tondino, magari un bullone o una rondella. Con l'entrata in scena di questi due tipi, la messa acquistava subito un andamento allegro e distensivo. Qualcuno ne approfittava per chiacchierare col vicino o per farsi due risate. Per i bambini, poi, era una festa. Talvolta succedeva che qualcuno di loro infilasse la mano nella borsa di Angiolino, così, per una forma di gioco. Tutto questo finché a calmare le acque non ci pensava lo stesso parroco che, interrotta ad un tratto la celebrazione, si girava verso i fedeli, non si sa bene se per riportare semplicemente il silenzio o anche per esercitare una forma diretta di controllo nella raccolta delle offerte. Una volta accadde che una bambina trattenesse nella mano la monetina che la mamma le aveva dato perché la mettesse nella borsa. Dapprima con le buone, la genitrice cercò di convincere la figlia a versare la moneta. Minacce e strilli. A nulla valsero i tentativi della madre, né i rimprotti dei vicini per vedere di farle schiudere la mano, e neppure l'intervento del parroco che, richiamato dal trambusto, si era nel frattempo voltato. Alla fine il soldino rimase nella mano chiusa a pugno della bambina. Che cosa ne avrebbe fatto, lo si sarebbe capito a fine messa. Uscita dalla chiesa, la bambina si diresse verso un mendicante che sostava vicino alla porta e gli depose nella mano la monetina. Quali siano state poi le decisioni prese su di lei una volta a casa, non si sa. Una cosa è certa: nel suo candore la bambina aveva colto il fulcro del messaggio evangelico, che vuol dire anzitutto disponibilità verso i poveri. Una bella lezione impartita al parroco, già ricco del suo, e ai suoi due zelanti servitori. Bello questo qui, vero? È molto bello. Cara questa bambina, cosa dici, che andiamo avanti con la canzone o... Sì, direi di sì. O ne leggi un altro? Beh, eventualmente se ne hai possiamo... uno cortino? Sì, uno corto. Allora leggeremo La Munega. La Munega era uno speciale trabiccolo dalla forma arcuata e rivestito internamente di lamiera. Serviva da supporto allo scaldino, un recipiente in ferro in terracotta che veniva riempito di braci coperte di cenere e successivamente inserito, appoggiato o appeso all'interno dell'attrezzo. La Munega la si infilava tra le lenzuola la sera, un paio d'ore prima di coricarsi. I primi anni, dopo l'alluvione pollesana del 51, furono particolarmente duri. La casa, costruita in fretta e furia nell'estate del 52, rimase sprovvista per un certo periodo di alcuni servizi necessari, fra cui un adeguato sistema di riscaldamento. «A manca i scai», diceva mio padre. In sostanza, al di fuori della cucina, l'unico locale riscaldato, tutte altre camere, per dirla in dialetto, esera già sa. E naturalmente, oltre ai muri e ai vetri delle finestre, che di notte si arabescavano di brina, anche il letto formato matrimoniale, che dividevo con altri due fratelli, esera già sa. A rendercelo accogliente ci pensava la mamma con la cosiddetta munega, uno speciale trabiccolo che la mamma infilava ogni sera d'inverno sotto le coperte. Il letto acquistava così un'aria funebre, ma rassicurante. Com'era bello entrarvi subito dopo che la mamma aveva tolto la munega. Per non perdere neppure un briciolo del calore lasciato dallo scaldino, ci coprivamo con la trapunta fin sopra la testa. Il letto si trasformava così in una deliziosa nicchia, inespugnabile difesa contro il gelo che pian piano, spentisi anche gli ultimi legni ancora accesi nella stufa, avrebbe avvolto tutta la casa. Succedeva anche che la mamma, presa com'era delle faccende domestiche, si dimenticasse di mettere su la munega. La situazione si faceva allora veramente seria. A nulla serviva che per lenire i tormenti del freddo ci si infilasse nel letto con la camicia e le calze. Si rimaneva lì come mummificati, il corpo attraversato da tremendi brividi. E solo attingendo un po' di calore dall'uno o dall'altro fratello ci si riusciva finalmente a riscaldare. Per fortuna che ciò accadeva molto raramente. Sul far della sera ci pensavamo noi a ricordare alla mamma di scaldarci il lettone, come se di incombenze, santa donna, non ne avesse già abbastanza, con una famiglia di 7 persone da portare avanti. «Mamma», iniziavo io, «ricordate di mettere su la munega. Adesso fammi preparare la cena e dopo metto su». Mangiavamo, poi qualcun altro tornava a rammentarglielo. «Mamma, è la munega. Femme prima a lavare i piatti». «Se non te puoi, metto su me», suggeriva qualcuno tra i fratelli. «No, no, voi altri mi brusei quarte». La costringevamo così ad interrompere il proprio lavoro per dedicarsi alla munega. Accadeva talvolta che, nonostante le nostre insistenze, si limitasse a infilare in fondo al letto un mattone, la cosiddetta piera, riscaldata nella stufa e avvolta con un pezzo di stoffa. Meglio di niente, se appoggiandovi i piedi se ne poteva attingere un po' di calore. E poi i mattoni in casa mia non mancavano mai, essendone i miei, oltretutto, dei fabbricanti. In seguito, con l'uso dei termosifoni, non ci fu più bisogno di scaldare i letti, ma non era quanto entrare nel tepore lasciato dalla munega nelle fredde e nevosi notti d'inferno. Difatti aveva un odore particolare. Da noi a Mantova lo chiamavano il prete. Il prete? Sì, sì, esatto. Da noi sì. Però era quell'odore di proprio di inverno. Di... Vabbè. Benissimo. Allora, adesso, torniamo... Scusate, ma torniamo alla nostra festeggiata, la signora Bianca. E prima abbiamo dedicato una canzone da parte del marito e adesso gliela dedichiamo noi, vero Antonio? Una naturalmente, canzone doverosamente. Ecco, perché so che a Bianca piace un certo tipo di canzoni. E dedichiamo Incantesimo, cantata da Luciano Virgili. Se vuoto il domani. Ci siamo ascoltati questa bellissima canzone che abbiamo dedicato Antonio e Dio a Bianca per augurarle un buon compleanno. Bene, adesso abbiamo al telefono il signor Donato Marinello. Sì. Signor Marinello, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come va? Va bene, sono qui in attesa di riferire un po' su queste usanze antiche. Bellissime. Sì, decisamente, anche i giochi antichi, una cosa straordinaria. I giochi antichi. Sì, certo. Che in fase proprio di recupero, di revival. Sì, ecco. Mi ha detto magari... cosa abbiamo letto, no? Fino adesso noi. Sì, ecco, ho sentito Bertino nel Mastello, no? Sì. Ecco, diciamo che questo racconto prende lo spunto da come, diciamo, si viveva una volta, no? Diciamo, la vita di una volta era molto dalle mie parti, ma un po' era un po' il riflesso anche della vita in provincia di Padova, di Treviso, un po' in tutto il Veneto, del tipo di vita molto, molto austera che spartano, diciamo, proprio, sì. Spartana che esisteva a quei tempi. Questo ovviamente mi porta a parlare un po' del tipo di riscaldamento nelle case in quei tempi, sì. Ecco, che lasciava, diciamo, piuttosto a desiderare, nel senso che l'unico, come avete potuto, diciamo, sì. e vincere dal racconto di Bertino del Mastello, era chiaramente l'unico locale a quei tempi era la cucina. Ecco, riscaldata, tutte le altre erano praticamente a temperatura zero, no? Adesso non ci si resisterebbe? No, chiaramente adesso no, la nostra vita adesso è assai molto più confortevole, no, rispetto ad una volta. Ecco, e infatti ancora adesso non riesco a capacitarmi del fatto come sia riuscito a sopravvivere da bambino in quelle condizioni di temperatura. E comunque siamo cresciuti forti, no? Cioè, questo è, siamo temprati, diciamo, ecco. Il freddo ci ha temprato. Esatto, sì. Ma insomma, ecco, c'è anche fatto soffrire. Sì. volevo, cioè, così, dilungarmi un attimino sul perché della Munega, ecco, questo trabiccolo che veniva appunto inserito tra le lenzuola, ecco, chiaramente era un'esigenza che nasceva soprattutto dagli anziani, questa, ecco, di avere un po' di calduccio, no, la sera prima di andare a letto. E, poi chiaramente poi c'era anche, bisognava stare molto attenti poi con il cosiddetto braciere, che in pratica era una padella, no, che veniva riempita di carbone, di brace, ecco. E, però c'erano degli accorgimenti, mi ricordo che la mamma metteva prima uno strato di cenere, no? Poi metteva la brace e poi dopo di nuovo la cenere, perché tra i tizzoni accesi, tra le braccia, poteva esserci appunto un legno ancora non completamente bruciato che poteva una volta messo nel trabicolo giustamente scoppiare e provocare magari un incendio, nonostante il trabicolo fosse, come dire, al suo interno rivestito di lamiera, no? Quindi ecco, c'era questo accorgimento qua. E niente, per quanto riguarda il riscaldamento, era questo l'accorgimento migliore per poter avere un po' di tepporino tra le lenzuola. Mi ricordo che la sera c'era in certe case, eccetera, la gente si trasferiva ad esempio dalla casa alla stalla, no? Che era un altro ambiente cioè riscaldato, ma non è riscaldato c'era un braciere. Erano le mucche che scaldavano la stalla. Le mucche che riscaldavano, certo. Fonti alternative. Le persone con il loro corpo, con i loro fiati. Certo. Andavano a fare il fiocco. Ho dei bellissimi ricordi lì, eccetera, anche se non c'è un racconto anche scritto su questo argomento. La stalla, sì, esatto. La stalla, cioè, dove appunto ci riunivamo. E diciamo, si faceva il cosiddetto filò, no? Sì. Che era una veglia che si faceva appunto nella stalla, dove le donne si riunivano e parlavano, diciamo, di tutto, di più, dei fatti del giorno, ecco, e facendo anche un po' di pettegolezzi, ecco. E la stalla a quei tempi era, come dire, un punto di ritrovo anche per i giovani, perché nella stalla entravano, andavano anche i morosi, sì. E quindi era l'occasione per trovarsi la ragazza, per farsi l'amorosa. Certo. E comunque, per esempio da noi, io sono nata a Mantova, che non è tanto distante da Rovigotto, insomma, e si mangiavano le castagne secche e bollite nell'acqua con dei semi di finocchio e con dello zucchero, poi si mangiava nella scodella questo brodo con le castagne dentro. Non so se da voi usava. Sì, una cosa simile anche da noi. In questo momento non ricordo con precisione, però ecco, si mangiavano cibi molto molto semplici, proprio con quello che si trovava, con ad esempio quello che ti offriva l'orto. Cucina povera proprio. Ad esempio mi ricordo che il principale, diciamo, alimento chiaramente era la polenta, no? Si abbinava a qualunque tipo di cibo. Si mangiava polenta, non so, formaggio, polenta erenga, polenta e sardine, polenta in faso A, polenta col baccalà, ad esempio. E poi certe sere che non avevamo questo cibo, magari una sola ringa, no? Sì. Doveva servire per 7 persone. Sì. Quindi ecco, c'era. Bisognava, insomma, essendo in 7 in famiglia, bisognava fare di necessità virtù. Tanta polenta, no? E poca ringa. Praticamente, cioè, cosa si faceva? A turno prendevamo un tocco con la forchetta, un pezzettino di polenta, e la intengivamo, cercavamo di insaporirla con questa aringa, no? E ce la passavamo a turno e ognuno, diciamo, pucciava sulla ringa la polenta per insaporirla, no? Ecco, certo. Era la cena dei nostri tempi, no? Non sempre, no? Che avevamo anche avevamo un orticello noi, da cui potevamo attingere un po' di verdura, un po' di insalata, e così. Poi da noi c'era l'usanza, come in moltissime altre famiglie, di ammazzare il maiale. Ah, no? Ma anche da noi, sì, perché certo. Difatti verso dicembre ammazzavano, sì, il maiale, e sì, poi... E poi lo si cresceva per una, diciamo, un anno, fino a tirarlo anche un paio di quintali. 2 agosti, sì, esatto. E poi dopo il momento arrivava il momento tragico. Comunque, no? Ho visto lì che ci sono i suoi racconti, c'è il maiale, poi leggeremo, se non facciamo in tempo stasera, certo, lo leggeremo, sì, la prossima volta. Invece, mi è piaciuto quello dell'elemosina. Sì, dell'elemosina, ecco. Per quanto riguarda il discorso delle elemosine, dunque c'era, come anche lì nel Padovano, un po' in tutto il Veneto, c'era appunto l'usanza di andare, diciamo, a raccogliere le questue, di andare a questua, no? Nelle, sì, case. Chiaramente non in tutte le case, no? Lì ho parlato così, che faceva il prete col suo sagrestano, faceva il giro del paese, entrava nelle case, chiaramente il prete sicuramente conosceva lo stato economico delle proprie pecorelle. Le disponibilità. Quindi, e quindi entrava nelle case dove sapeva di poter ricevere magari qualche chilo di frumento o di farina o un salame, eccetera, eccetera. E quindi c'era questa, come dire, appunto si partiva dal presupposto di conoscere appunto i propri fedeli. I propri polli. I propri polli, giusto, è il caso proprio di dirlo. Il prete polli. Sapeva tutto, di tutti. Sapeva tutto, di tutti. Ah sì, altro che. C'era, come lei avete potuto desumere leggendo il racconto, c'era questo, soprattutto da parte di questo prete che ho avuto, no? Questo atteggiamento di attaccamento ai soldi, di controllare anche quando i due fedeli incaricati andavano in giro per raccogliere le offerte, che ognuno dei fedeli facesse il proprio dovere, no? Chi dava o chi non dava, sì. Appunto, sì, ecco. E quindi c'era un po' questo atteggiamento. Poi volevo... mi ricordo poi di un altro particolare. Signor Marinello, aspetti un momentino. Adesso lei stia lì fermo, che noi ci ascoltiamo una canzone. Certo. Vabbè, dopo, e dopo la riprendiamo, va bene? D'accordo, va bene. Ok. Sì. Allora ci ascoltiamo la quarta canzone. Mamma insegnami a bailar. Mamma insegnami a bailar. Nell'eventualità. Tre passi no di più, quelli che sai fare tu, mi faranno volare, mi lascerò andare, come fa un trattinante gaga, supponi che lei è qui vicino a me. Mamá, enséñame a bailar. Fred Astaire volvió a imitar. Gambetando con un mango, una rumba o la tumba de un bel cha cha cha. Mamá. Mamá, enséñame a bailar. Yeah. benvenuti di nuovo in studio e abbiamo ancora il nostro Marinello Donato. Signor Marinello? Sì, sì. Eccoci sì, qua. Sì, sono io, sono sempre io. Allora, stavamo parlando dell'elemosina. Sì, ecco, e volevo appunto, a proposito di religiosità nei sì. paesi di una volta, volevo mettere il, diciamo, l'accento anche su un altro aspetto di questa religiosità, che era che una volta c'erano queste processioni, no? E in occasioni, ad esempio, della Pasqua, della Passione, oppure del Corpus Domini, eccetera, eccetera, e come dire, ed erano a quei tempi delle vere e proprie rappresentazioni teatrali, nel senso che coinvolgevano un po' tutto il paese. Io mi ricordo quando, ad esempio, c'era la processione riguardante la passione di Gesù. La Via Crucis. Ad esempio c'erano la Via Crucis, le varie tappe della Via Crucis erano, diciamo, come dire, interpretate dai personaggi stessi, dalle persone stesse del paese. Per cui ad ogni stazione c'era una persona che, non so, per dire, rappresentava la Veronica che asciuga il sudore a Gesù, un altro che, diciamo, che si offriva per portargli la croce, eccetera, eccetera. C'era proprio, secondo un po' quella tradizione medievale che aveva in Jacopone da Todi, il suo massimo, diciamo, esponente, no? Quindi ecco, aveva un po' questo. Poi è chiaro che questa, come dire, tradizione poi via via è scomparsa ed è rimasta in alcuni paesini d'Italia. Ma c'era questo, adesso non so se anche sì, questo. Sì, era della Bassa, così era usato, perché c'è un po' di differenza dalla campagna della Bassa e quella della Alta, per esempio Treviso, Padova. Sì, sì, sì. La nostra, nella Bassa, che tra le quali c'è anche la mia città, era così, erano così le cose, insomma. Era quindi una religiosità molto sentita che coinvolgeva appunto l'intero paese. Ecco, tutti partecipavano al momento. Adesso parliamo di se, perché adesso le dico. Adesso lei ci parlerà un po' del, abbiamo letto il racconto Poveri ma belli. Sì, sì, sì. Ma dopo sì. Vorremmo fare in tempo, quando lei ha finito, a leggere anche Il maiale e la stalla. Sì, sì. Così sì, certo. Seguiamo tutto quello che lei ci ha raccontato. Certo. Allora, Poveri ma belli è proprio reale, perché era veramente così. Era veramente così. Diciamo, quando bisognava che indossassimo, per dire, dato che di soldi ne giravano assai pochi in famiglia, i vestiti dei fratelli, praticamente ci passavamo i fratelli, quelli più grandi, i loro vestiti li passavano a quelli più piccoli, la mamma chiaramente li accorciava, li riadattava al nostro corpo, però comunque rimanevano sempre piuttosto larghi rispetto alla nostra persona, no? Alla certo. nostra statura. Ecco, quindi c'era questo, perché chiaramente, ripeto, di soldi ne circolavano assai pochi. Però la cosa che, e di questo noi mi ricordo che ne eravamo ben consapevoli, sapendo i sacrifici che bisognava fare per guadagnare questi soldi, no? Quindi ognuno aveva, come dire, ci teneva al proprio indumento, alle proprie scarpe, eccetera, no? Ecco, anche alla bicicletta che usava per andare amorosa, per andare al lavoro, perché si sapeva benissimo che era frutto di sacrifici, e quindi questo era appunto, era questo l'atteggiamento che avevamo nei confronti delle nostre cose personali. Io ho l'impressione, scusi, io ho l'impressione che si teneva meglio la bicicletta di allora che la macchina di adesso. Certo, e lui dalla lettura del racconto, lei avrà dedotto che, come si chiama, per quanto riguarda l'incidente capitato a mio fratello, che appunto la preoccupazione per lui non era stata quella di dire un momento, adesso chissà cosa, con l'acqua addosso, con questo freddo che mi so, chissà cosa mi succederà. Ma era il problema di dire, io devo tornare a casa e per me la bicicletta è tutto, certo. È un metodo di trasporto preziosissimo, importantissimo, no? Allora, quindi, mi scusi se interrompo, siccome purtroppo il nostro tempo è tiranno. Certo, certo. Oggi, stasera abbiamo parlato di queste cose. La prossima volta, quando sarà, Continueremo a leggere i suoi racconti e lei ci parlerà appunto di altre cose della sua campagna, del suo paese. Adesso noi vorremmo, prima della fine dell'ora, poter leggere la stalla e il maiale dei quali lei ci ha parlato adesso, no? Certo, d'accordo. Per cui adesso noi la ringraziamo vivamente e speriamo di risentirci abbastanza presto. Beh? D'accordo, va bene. Grazie, alla prossima. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Allora ringraziamo il nostro Donato Marinello e allora leggi ancora questi due racconti, sì. Così ci colleghiamo. Allora, la stalla. Ne feci la mia prima esperienza durante l'alluvione polesana nel novembre del 51. Per non finire sott'acqua, riparammo inizialmente presso Gazzo Padovano, un paese in provincia di Padova. Venimmo divisi fra varie famiglie. Io e mia madre fummo accolti per qualche settimana dagli Sperotto, una famiglia di quelle benestanti. Possedevano terreni ed una stalla. Ben presto dovemmo abituarci ai loro ritmi di vita. Una delle loro abitudini era quella di andare quasi ogni sera con le altre famiglie a fare il filò nella stalla. Era indubbiamente questo il momento più bello della mia giornata. Avevo allora 8 anni. Seduti su scranni di fortuna, ma anche su balle di fieno, gli adulti ingannavano il tempo parlando di tutto e di più. I discorsi degli uomini riguardavano principalmente i problemi della campagna. Dall'aratura alla semina, dalle varie tecniche di innesto e di potatura all'imbottigliamento del vino, dalla mungitura delle mucche allo svezzamento dei vitellini. Le donne lavoravano a maglia o a tombolo, rivangando nel contempo i fatti del giorno, modificandoli ed arricchendoli a loro piacimento, ma anche elargendo preziosi consigli alle giovani che stavano per sposarsi. L'unico che aveva un modo tutto suo per trascorrere le ore serali ero io. Per me ogni volta la stalla costituiva una riscoperta, anche se qualche mucca avevo già avuto modo di vederla. Ma così tante, dal mantello variamente pezzato, allineate e disposte su due lati, alcune accovacciate, altre in piedi, quasi tutte intente a ruminare, francamente, era la prima volta che mi capitava di assistere a uno spettacolo del genere. Vagavo da solo per la stalla con l'aria incantata e un po' spaurita di chi si muove fra pachidermi e dinosauri. Ogni tanto mi giungeva la voce della mamma: «Non dare vicino ai vacche!» Ma io ero troppo intento a esplorare il nuovo mondo per darle retta. Le mucche sembravano per lo più indifferenti alla mia presenza, tranne qualcuna che, interrotta per qualche istante l'attività masticatoria, si girava per guardarmi. Scoprii così che queste bestie, gigantesche quanto miti, disponevano di alcuni formidabili strumenti naturali per l'igiene personale, quali la lingua e la coda. Notai che con la prima si leccavano, o meglio, si grattavano la schiena. Con la seconda, invece, si spazzolavano i posteriori. Con la medesima coda, qualcuna forse mi accarezzò la faccia, in segno di affetto. Qualcun'altra, quasi a voler punire la mia eccessiva invadenza, me la frustò. Altre mi rovesciarono senz'altro addosso quale gentile regalo i frutti del loro metabolismo, ma il ricordo più vivido di quell'esperienza è indubbiamente legato alla nascita di un vitellino. Accadde una sera sul tardi. Colta dalle doglie, una mucca con il pancione cominciò a muggire in modo sempre più lamentoso. Poi, fra le acque che aveva incominciato a perdere sempre più abbondantemente, spuntò a un tratto la testa di un vitellino. Assistita e incoraggiata dagli uomini, la mucca contrasse il ventre fra muggiti sempre più accorati. Sospinto dalla madre, il piccolo proseguì il suo viaggio verso l'esterno fino a sgusciare fuori del tutto. Gli uomini lo afferrarono prontamente, rendendogli così più morbido l'atterraggio. Dopo avergli reciso e annodato il cordone ombelicale, lo misero accanto alla madre. Malfermo e traballante, il vitellino cercò immediatamente le poppe, ma fece subito un tonfo. Sotto lo sguardo trepidante della madre, il neonato annaspò, tentò in qualche modo di alzarsi, si rovesciò addirittura sulla schiena. Poi, con una spinta, riuscì a rimettersi sulle zampe. Al resto ci pensò la mamma, che con qualche energica leccata lo spronò a succhiare del suo latte. Ci sono sicuramente altri fatti lieti nel breve periodo trascorso a Gazzo, fra cui le galoppate che Fran, un giovanottone di 20 anni, l'unico un po' carino della famiglia, mi faceva fare per la campagna sul cavallo, e i pomeriggi passati con uno dei figli del sindaco, mio coetaneo, fra balocchi di ogni genere, ma nulla di più suggestivo e bucolico mi sarebbe impresso nella mia mente in una stalla illuminata e riscaldata dalle stesse mucche nella buia e gelida campagna. Ecco, noi abbiamo cercato attraverso questi racconti di parlare un po' della campagna del basso Molise, esatto, della bassa Padovana. Ti dirò che qui è un qualcosa che mi richiama alla mente esperienze pregresse anche mie, proprio qui della campagna trevigiana. Anche mie. Ma sembra proprio una fotografia del passato, una cosa straordinaria, quello delle vacche. Poi c'era anche, ad esempio, io ricordo le esperienze, ecco, chi andava giovane, dopo naturalmente o prima di andare a scuola, perché c'è anche questo, una volta si andava a scuola però si esercitavano lo stesso delle funzioni che erano quelle tipiche dei contadini, non potendo i grandi farlo, allora mandavano ragazzi, a pasto con le vacche, certo. oppure che era un altro lavoro di fiducia, mandavano a pasto coe oche, dicevano dalla mia parte. Allora portavano le oche praticamente in campagna, eccetera. E lì poi c'è, cioè, naturalmente una volta erano anche abbastanza spicci e, se vogliamo dire, espliciti anche nella presa in giro e compagnia. E ricordo che appunto uno zio mio di San Cipriano, io avevo una famiglia di zii contadini, e diceva, c'era un detto che correva al tempo: ognuno il suo mestier e nane a pasto coe oche. E quindi chiaramente significava che nane è inteso come un po' una specie di, come posso dire, chiamiamolo così, uno sfottò bonario, eccetera. Eppure c'era un altro, come dire, detto anche questo da parte di dei piassarotti, dei come posso dire, della gente di paese, che era come città adesso, diciamo. E dicevano dei contadini, che poveracci appunto dovevano magari alzarsi presto la mattina, eccetera, dei figli dei contadini quando andavano a scuola, e quello non ha studiato perché a vacca che gamagna i libri. E quindi anche questo era un po' un modo, non dico bonario, abbastanza di scuotere, però. era anche vero che, per esempio, in un noto locale, che non dirò anche perché adesso non esiste più, in piazza di un paese della nostra Marca trevigiana, i poveri che non fossero i poveri, eccetera, i pori cani e compagnia, non potevano entrare al bar centrale. Ma pensa. No, solo potevano entrare solo i signori e le persone per bene, i mediatori e compagnia. Tanto per dire quale fosse, diciamo, il clima sociale di un tempo, mitigato anche da una certa bonarietà, se vogliamo. Ecco. Sì, però tutto il mondo è paese e tutte le epoche sono tutte le epoche buone, hanno la prossima volta Antonio, quando tornerà il signor Marinello, possiamo parlare anche dei mediatori. Personaggi straordinari. Ormai stasera siamo proprio in dirittura d'arrivo, e a parte queste considerazioni dico sono necessarie per richiamare la mente, ma anche parlandone per magari incuriosire qualcuno. Io penso di sì. Vabbè, allora non ci resta altro che augurare a tutti una buona settimana. Vi aspettiamo domenica, Dio piacendo, e come sempre un affettuoso abbraccio e ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.